E con l'incontro che avremo, che dà il via appunto a questa esposizione con Carol Rama, protagonista, abbiamo Lorenzo Balbi dal Mambo a una sede che mi hanno detto è stata la prima sede della Galleria di Arte Moderna di Bologna, ora Villa delle Rose. Beh, non solo hai ragione, ma è stato anche uno, possiamo considerare uno dei primissimi esempi in Italia di musei pubblici dedicati all'arte moderna e contemporanea. Allora si diceva arte moderna. Sì. Però nel 1936, quando apre Villa delle Rose al pubblico, era veramente uno dei primissimi esempi di uno spazio pubblico che apriva per rendere fruibili ai cittadini, ai turisti della città, quelle che venivano chiamate le collezioni d'arte moderna pubbliche, quindi degli artisti viventi, degli artisti recenti. Ed è stato veramente uno dei primissimi esempi di questa attività in Italia. Le collezioni che adesso sono confluite nel Mambo, è stata fatta anche una bellissima mostra qualche anno fa che ricostruiva un po' il passato e la prima versione di Villa delle Rose a cura di Uliana Zanetti e Barbara Secci sono confluite nel Mambo. Poi Villa delle Rose ha avuto una storia bellissima perché è stata un ospedale militare durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo che ha avuto una storia frenetica dopo che la contessa Nerina Armandia Vogli, come recita a Targa, vicino alla quale siamo, l'aveva donata al comune perché fosse una casa delle arti, perché fosse un luogo pubblico in cui Purché condividere, fosse. esatto, un patrimonio artistico della città. Dopo essere stato un ospedale nella Seconda Guerra Mondiale, è tornata ad essere quindi, come da volontà della donante al comune, un luogo per le arti ed è stata la prima sede della Galleria d'Arte Moderna, quando ancora la prima sede, quella in Piazza Costituzione di Leone Pancaldi, inaugurata nel 75, non era attiva. Ed è qui che quello che possiamo considerare il primo direttore della GAM, cioè Francesco Arcangeli, ha cominciato la sua attività anche di direttore e facendo le primissime mostre di Villa delle Rose. Quindi un luogo fortemente simbolico, un luogo che oggi riapre dopo un periodo di manutenzioni straordinarie, perché ovviamente è una villa del Settecento che ha bisogno ogni tanto di Del essere, tagliando. esatto, del tagliando e poi dell'adeguamento degli spazi, le normative che adesso sono molto diverse rispetto a 2 o 3 secoli fa. È un luogo pubblico, riapre oggi con una mostra molto ambiziosa, una mostra di una delle artiste italiane più importanti del Novecento, nonostante non fosse così celebrata in vita e nonostante gli sforzi di critici come Lea Vergine che l'hanno collocata al centro veramente della narrazione storica del Novecento, cioè Carol Rama, che viene presentata con un'ampia retrospettiva che presenta al pubblico, forse per la prima volta tutti insieme, l'intero nucleo dei Multipli, quindi delle opere che Carol Rama ha concepito in un'edizione di non una singola copia, ma siamo di fronte comunque a una riflessione anche sul medium multiplo, perché, come vedrà il pubblico che verrà a vedere questa mostra, su queste opere l'artista sempre agiva a mano libera, aggiungendo materiali nel puro suo stile anche compositivo, e quindi a tutti gli effetti di questi multipli diventavano opere uniche e singolari. E mi ha affascinato tantissimo la sezione Evil Tongue, le malelingue che lei rappresenta in questo modo di bianco e nero, e improvvisamente uno spuntare come una fiamma che è La pronta. lingua. Infatti. Sì, beh, la cifra stilistica di Carol Rama è nota. Insomma, lei riportava nelle sue opere anche parte della sua biografia, la sua infanzia difficile, il fatto di essere rimasta orfana molto giovane, il fatto di aver subito violenze fisiche e psicologiche. Lei era figlia di un biciclettaio, quindi queste famose camere d'aria e materiali che si trovano nelle Sì. sue opere sono proprio anche un rimando e un ricordo al laboratorio del padre in cui lei trovava questi materiali e li utilizzava per le sue creazioni. Ma sicuramente i corpi mutilati, le lingue e gli organi sessuali evidenziati Sì. sono un chiaro rimando per lei a questa violenza, a questa forma di sessualità vissuta con grande disagio anche in età adulta per lei. Tutto questo in un'estetica, mi permetto di dire, anche se vogliamo, di armonico contrasto presente. La sua cifra estetica è senza tempo, Sì. è di una contemporaneità sconvolgente. I suoi temi, come appunto la violenza sulle donne e un certo tipo di femminilità da ribadire, da affermare nell'era del patriarcato, ha sicuramente un messaggio che travalica le stagioni e i decenni. E questo è un po' anche quello che questa mostra vuole evidenziare. questi i suoi sono messaggi, ahimè, ancora estremamente essenziali per il nostro giorno. E meno male che c'è chi li ha mandati attraverso l'arte, che è un veicolo fondamentale. Mi permetto di aggiungere che ho osservato anche uno spazio letterario in mostra. Sì, questa mostra, curata da Elena Re, che è una delle più importanti storiche e esperte del lavoro di Carol Rama, è in realtà concepita come una grande retrospettiva, quindi unisce, sebbene attraverso il filtro dei multipli e delle edizioni di Carol Rama, tutti i lati espressivi, le possibilità che quest'artista ha raggiunto, quindi a partire dalla riflessione sulla pittura, le forme, i materiali, per arrivare alla letteratura e i suoi riferimenti anche biobibliografici. Quindi una mostra veramente completa per chi vuole avere un'idea di una delle protagoniste dell'arte del Novecento italiano. Anche estesa, perché c'è un secondo piano, ho visto. La mostra copre interamente la superficie espositiva di Villa delle Rose, quindi tutte le 8 sale, le 8 grandi sale, quindi le 3 al piano terra e le 5 al piano superiore, e restituisce anche negli spazi quella dimensione intima e personale che la visione di alcune opere di Carol Rama impone, quindi un atteggiamento uno a uno pubblico-opera che spinge veramente a portare il proprio vissuto all'interno dei lavori di Carol Rama. Grazie Lorenzo, a presto allora con tutta questa rassegna che stiamo seguendo con piacere di Art City. Ci sentiremo presto. Grazie, grazie, buona giornata. Grazie a voi e a presto.